Quando sembra tutto nero il frutto di questa tua vita, da gridare che sfiga, figa, figa, e la rivoluzione ti si è persa dentro, ora ti prevale un senso d'arresa. Parli più.